L'Evangelo per radio. Il tocco che guarisce. Desidero leggere, gentili ascoltatori, un episodio della vita di Gesù come lo troviamo scritto nel Vangelo secondo di Luca al capitolo 8. Pur mentre Gesù andava, la moltitudine l'affollava. E una donna che aveva il flusso di sangue da 12 anni ed aveva speso nei medici tutta la sua sostanza senza poter essere guarita da alcuno, accostatasi per di dietro, toccò il lembo della veste. E in quell'istante il suo flusso le stagnò. E Gesù domandò: «Chi mi ha toccato?» E siccome tutti negavano, Pietro e quelli che erano con lui risposero: «Maestro, le turbe ti stringono e t'affollano». E Gesù replicò: «Qualcuno mi ha toccato, perché ho sentito che una virtù è uscita da me». E la donna, vedendo che non era rimasta inosservata, venne tutta tremante e, gettatasi ai piedi, dichiarò in presenza di tutto il popolo per quale motivo l'aveva toccato e come era stata guarita in un istante. Ma egli le disse: «Figliola, la tua fede t'ha salvata, vattene in pace, pace». L'episodio che ho letto non era certamente nel programma di Gesù. Gesù stava andando da Gairo, capo della sinagoga, che lo aveva pregato di andare in casa sua perché aveva una figlia unica, di circa 12 anni, la quale stava per morire. E Gesù si era incamminato verso la casa di quest'uomo. E mentre egli era in cammino, molta gente lo seguiva, lo attorniava. Ora, era molto probabilmente questa gente lo seguiva perché voleva vederlo, voleva vedere il miracolo che egli avrebbe fatto. Era forse curiosità, chissà. Seguiva Gesù e questa gente l'affollava, questa gente lo stringeva, davanti e di dietro. È facile immaginare anche oggi, se ci fosse un uomo che veramente guarisse a destra e a sinistra, quanta gente gli andrebbe dietro. Ebbene, Gesù stava andando verso la casa di Gairo quando a un tratto egli disse che qualcuno l'aveva toccato. Strano, l'aveva toccato. Era impossibile non toccarlo. Perfino Pietro ad un dato momento ha dovuto rispondere: «Ma maestro, le turbe ti stringono e t'affollano, ed è impossibile che nessuno ti abbia toccato». «No», rispose Gesù. «Qualcuno mi ha toccato, ma mi ha toccato in un modo diverso». Ed è a questo punto che la donna, che fino a quel momento era rimasta inosservata, si gettò ai suoi piedi e disse la ragione per cui lo aveva toccato. Questa donna soffriva di un flusso di sangue, questa donna soffriva di una malattia certamente imbarazzante, una malattia che la rendeva continuamente immonda, e al tempo dei giudei, questo voleva dire che non aveva la possibilità di accostarsi ai servizi religiosi. E questa donna certamente era molto triste, era disperata, perché non vedeva una via d'uscita nella sua malattia. Ed ecco, a un tratto, sentendo parlare di Gesù, è andata in mezzo alla folla, e con la mano della fede ha toccato Gesù, al che Gesù si rese conto che una virtù era uscita da lui e appunto chiese: «Chi mi ha toccato?» La donna era stata scoperta e ha dovuto dire pubblicamente, ha dovuto confessare pubblicamente l'atto che aveva compiuto. Questo episodio ci insegna una cosa molto importante e molto valida anche oggi. Molti possono toccare Gesù, molti possono seguire Gesù, ma lo fanno magari per curiosità o perché seguono la folla, perché tutti vanno in quel senso e quindi ci vanno anche loro. Si trovano così trascinati con la corrente e toccano Gesù, ma è un toccare che non produce nulla, nessun cambiamento nella propria vita. Vi è un altro modo di toccare Gesù, e quel tocco produce una guarigione. Forse tu che ascolti avrai toccato Gesù più di una volta, avrai sentito parlare di Lui, forse segui anche certi Suoi comandamenti. Ma questo non basta. Forse tu non sei stato guarito, forse la tua anima non è ancora in pace col Signore, forse la tua pace è effimera, è una pace che muta secondo i momenti, forse non hai trovato quella guarigione totale che ha trovato quella donna. Ma vi è un solo modo per essere guariti, quello di toccare Gesù con la mano della fede e credere che Egli ti può per sempre togliere il problema e il peso dei tuoi peccati. È questo tipo di tocco che può fare di te un figlio di Dio. Sì, può darsi che tu segua Gesù, ma il giorno in cui tu toccherai il Signore per essere guarito, il giorno in cui tu crederai in Lui nel vero senso della parola, allora seguire Gesù per te sarà tutta un'altra cosa. Non sarà per curiosità, non sarà perché lo fanno gli altri, ma perché tu hai sperimentato nella tua vita una nuova potenza, una nuova forza, una nuova vita. E allora, pubblicamente dirai: Gesù mi ha salvato,